baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buona giornata a tutti da Mauro Meazza, bentornati al nostro appuntamento con la rassegna stampa, con i quotidiani oggi in edicola. Cominciamo dai titoli proposti dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che punta sulla cassa integrazione, questo dato decisamente preoccupante di cassa integrazione. Il titolo del Sole 24 Ore è Cassa integrazione alle stelle. A dicembre più che raddoppiato il ricorso alla cassa integrazione con un più 525% per la cassa integrazione di tipo ordinario. Inoltre, apprendiamo sempre dal titolo del Sole 24 Ore, più disoccupati tedeschi e in USA 700.000 licenziati, giù Wall Street, quindi anche effetti sulle borse che sembrano collegati a questo cattivo andamento del lavoro. Ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, l'Europa a secco di gas che tenta una pace tra Mosca e Kiev, l'articolo a doppia firma di Adriana Cerretelli e Antonella Scott, con gli approfondimenti poi nelle pagine interne. La vicenda all'Italia con la questione Malpensa, naturalmente in evidenza anche oggi sul Sole 24 Ore. All'Italia, ok di Berlusconi all'alleanza con Air France, resta il no di Bossi. Su Malpensa non faremo favori a CAI. E poi il voto di fiducia per il decreto legge sull'università, che si avvia alla sua definitiva conversione, è attesa per la giornata di oggi. Dopo la fiducia al governo, oggi il voto finale. Nuovi concorsi e fondi alle università migliori, la riforma vicina al traguardo. Questa è la segnalazione sul Sole 24 Ore. Sugli altri giornali, ugualmente la vicenda all'Italia tiene banco. Per il Messaggero, all'Italia Air France disco verde è il titolo più importante. Il premier incontra Colaninno, promuove l'alleanza, ma è tensione con la Lega, riferisce il quotidiano romano. Slitta lunedì il consiglio di amministrazione di CAI. Berlusconi segnala non c'è un'offerta di Lufthansa. Bossi, però ci sono le rotte, quindi continua questo punto di scontro interno alla maggioranza sul futuro di Malpensa e sullo sviluppo di CAI. Nella parte centrale della prima pagina del Messaggero, la questione del gas blocco totale all'Europa, la Russia sospende tutti i rifornimenti. Commissario Barroso, non possiamo essere ostaggio. L'Italia convoca il comitato di crisi, ma il governo rassicura, si può stare tranquilli, le riserve, come sapete, dovrebbero durare fin verso la fine di gennaio. Passiamo a Repubblica. Repubblica ha come titolo più importante la vicenda CAI Air France e Malpensa. CAI Air France, l'ira di Bossi, rottura tra il Premier e la Lega sull'alleato per Alitalia e su Malpensa. E inoltre segnala sempre il titolo di Repubblica, cassa integrazione record a dicembre, unendo quindi anche la vicenda economica in materia di lavoro. Berlusconi, via libera Spinetta, ma il senatore ribatte, è una stupidaggine, questa è la frase testuale pronunciata da Bossi, che viene ripresa da più giornali. Nella parte alta della prima pagina però Repubblica dà molto risalto alla frase Gaza è un lager, pronunciata dal cardinale Martino, ed è scontro tra Israele e Vaticano. La frase ha molto risalto, come dicevamo, sta provocando un certo risalto e molte frizioni diplomatiche anche a livello europeo. Corriere della Sera, all'Italia è la questione giudicata più importante dal Corriere della Sera. Sì del Premier, Air France vince. Bossi, per me è una stupidata. Berlusconi incontra i vertici all'Italia e dice Lufthansa, nessuna offerta. La parte, sempre la parte alta della prima pagina del Corriere della Sera, la neve a Milano. La neve a Milano e a Torino, con i disagi in tutto il nord, trova naturalmente molto risalto sui giornali di oggi. Disagi e accuse, riferisce il Corriere della Sera nella sua prima pagina. Nel nord 10 morti. E poi nella parte centrale la lite Vaticano-Israele su Gaza. Per Martino, campo di concentramento. La replica di Gerusalemme parla come Hamas. La Stampa Ancora il maltempo, caos da neve, aerei a terra e scuole chiuse. La stampa segnala già in prima pagina le riserve di gas, quindi la vicenda che vede opposta Mosca a Kiev sulle forniture. Le riserve di gas italiane bastano solo fino al 26. Questa vicenda naturalmente potrebbe avere effetti pesanti se non ci sarà un miglioramento deciso delle temperature. Nella parte centrale della prima pagina del quotidiano di Torino, Air France il sì di Berlusconi. Il premier dai tedeschi, quindi da Lufthansa, nessuna proposta, smentite le previsioni del sindaco di Milano e di Formigoni. Scontro con Bossi che dice è una stupidaggine, per Alitalia meglio Lufthansa, questo è il parere appunto di Bossi. Allora vediamo come la Padania, come abbiamo fatto un po' in questi giorni, insiste su questo tema. Il titolo più importante della Padania, che ricordiamo è diretta proprio da Umberto Bossi, è Bossi voglio gli slot su Malpensa. Per il Senatur la trattativa Cai Alitalia è ancora aperta, bisogna smantellare le balle che fanno circa. Telefonata del Premier che accoglie la richiesta di un Consiglio dei Ministri nell'Hub. Vertice risolutivo a Roma, dice la Padania. Nelle pagine 2 e 3 segnala che oggi ci sarà questo vertice tra i due leader. Sulla questione Alitalia, per il Senatur la partita non è ancora finita. Malpensa, slot liberi o Lufthansa. Al Cavaliere le condizioni di Bossi. Quindi non sembrano esserci molti margini di trattativa tra le due posizioni espresse dal Presidente del Consiglio da una parte e dal fondatore della Lega dall'altra sulla vicenda Malpensa e sul partner per Alitalia, così almeno come le apprendiamo dalla Padania che riferisce le posizioni di Bossi. Proseguiamo con il nostro sguardo complessivo alle prime pagine. Dal Giornale di Milano il primo titolo è sul maltempo, titolo polemico però perché dice ecco il pianeta surriscaldato. La polemica è naturalmente sul riscaldamento globale, sull'effetto serra, cioè su tutte quelle cose che abbiamo sentito in questi anni, in questi decenni verrebbe da dire, su un andamento climatico del nostro pianeta che sarebbe in aumento appunto, ma le temperature di questi giorni sembrano contraddire questa tendenza ed è la scelta del Giornale, ecco il pianeta surriscaldato è esattamente in polemica con questo atteggiamento. Ancora nella parte centrale della prima pagina trova spazio la questione Alitalia anche per il Giornale. Alitalia fa rotta su Air France, alto là di Bossi, Berlusconi che dice da Lufthansa nessuna offerta, il Senatur, i francesi una stupidata. Oggi atteso il vertice, vertice che appunto dovrà chiarire le posizioni. Avvenire da più spazio alla guerra a Gaza, tra le bombe si cerca lo spiraglio, a Gaza tregua umanitaria di 3 ore e poi ancora duri scontri, intreccio di movimenti diplomatici con la Francia di Sarkozy e l'Egitto di Mubarak in primo piano, Israele è possibilista, più rigida invece Hamas. Anche Avvenire segnala nella sua prima pagina l'aumento record della cassa integrazione, più 500%, ma non si licenzia, questa la precisazione di Avvenire, e poi ancora le questioni di Air France, del gas e del maltempo, in evidenza anche sul quotidiano della CEI. Il maltempo è il primo titolo per il Giorno, freddo da morire, neve record al nord, a Milano crolla una tettoia, morto un imprenditore. Gli aeroporti chiusi per ore, treni in tilt, riferisce il Giorno, 7 in totale sono state le vittime del maltempo. In Mosca azzera le forniture di gas all'Italia, l'autonomia è calcolata in 3 settimane. Sulla vicenda della guerra nella striscia di Gaza vi segnalo il manifesto sceglie di aprire con una vignetta. La vignetta è di Vauro ed è molto efficace, al di là di come ognuno la possa pensare sulla questione. Il disegno è quello appunto della morte con la falce, che, guardando l'orologio e riferendosi alle 3 ore di tregua, dice: bambini, ricreazione. Al 12° giorno di offensiva militare israeliana a Gaza, ricorda il manifesto, si contano 720 morti. Molto efficace questa vignetta di Vauro nel ricordarci gli orrori della guerra, di qualsiasi guerra naturalmente. Anche Liberazione naturalmente dà molto spazio, comprensibilmente dà molto spazio alla vicenda della guerra, bombe, morti e voci di tregua, e Israele attacca il Vaticano. Questo il titolo di Liberazione, che poi si completa con un polemico editoriale dal titolo: che diremmo se Hamas avesse ucciso 600 israeliani? Quindi posizioni decisamente più filo Hamas su questa parte della stampa. Ritorna anche per il secolo XIX il quotidiano di Genova, il titolo più importante è: la guerra, solo 3 ore di tregua, allargare l'offensiva. Infatti il piano di Israele è questo, sembra essere questo, ma c'è un grande montaggio con foto dedicato alla Liguria sotto la neve. Oggi scuole aperte, ieri il caos. Riprendiamo da Libero, ha una prima pagina decisamente diversa da quelle di altri giornali. C'è questa lettera di Vittorio Feltri, del direttore, lettera di Pietro. Lei è il principe dei moralisti, così riassume il titolo, però gestisce i milioni dell'Italia dei valori con la consorte. In batte nel tinello di casa sua e non rende conto agli elettori. Questo il polemico titolo di Vittorio Feltri nei confronti di Di Pietro. Però da Libero prendiamo un altro elemento che viene riportato pure sulla prima pagina, nella parte bassa della prima pagina. Ci informa Francesco Perugini: girano ancora 3.000 miliardi di vecchie lire, fanatici della moneta fuori corso. Non c'è più una lira, dice Perugini, sono ormai 7 anni che cerchiamo di liberarci di questa frase provando a convertirla nella più moderna: non c'è più un euro. Eppure questa espressione, così antica e così attuale, ci torna sempre in bocca, non solo in tempi di crisi. Sarà forse perché noi italiani non abbiamo alcuna intenzione di liberarci della lira. Secondo la Banca d'Italia, infatti, sono ben 312 milioni le banconote del vecchio conio a essere ancora ben nascoste nelle tasche o più probabilmente nei cassetti. Il servizio poi nelle pagine interne ci informa che di questo tesoretto in lire, come appunto viene ribattezzato dal titolo nelle pagine interne, questo tesoretto in lire consiste in 2.668 miliardi della vecchia moneta che sono scaduti e mai convertiti. La somma convertita in euro fa 1,3 miliardi di euro. Ci sono stati invece 1 miliardo di lire convertito tra il 14 ottobre e il 15 novembre ancora del 2008, quindi girano ancora parecchie lire, è la segnalazione che ci viene da Libero. E ancora da Libero invece riprendiamo un tema che abbiamo visto anche su Il Giornale, cioè le polemiche sulle affermazioni scientifiche, sulle indicazioni scientifiche in materia di riscaldamento globale del pianeta. Il freddo di questi giorni ha, come dire, alimentato qualche perplessità da parte della gente comune, da parte di tutti noi che fatichiamo a capire il legame tra un complessivo riscaldamento del pianeta, probabilmente da misurare su tempi più lunghi, e tuttavia l'indubitabile ondata di maltempo e di freddo, di abbassamento delle temperature alla quale stiamo assistendo. Libero è molto tranciante, molto deciso sul punto. L'orso sta bene, dice il titolo delle pagine interne, e l'era glaciale scioglierà i catastrofisti. I ghiacciai artici, ci informa appunto questo articolo affidato a Fausto Carioti, crescono e l'inverno è più freddo. Tutti dati che sfatano il business dei profeti del surriscaldamento. In breve viene segnalato nella stessa pagina che secondo il centro di ricerca sul clima artico che è all'Università dell'Illinois, i ghiacciai artici sono oggi identici a quelli del 79, e secondo un esploratore artico, Fred Goldberg, fra non molto si dovrebbe entrare in una breve era glaciale come quella che si è verificata verso la metà del 600. Ci sono poi 650 tra geologi, glaciologi, fisici, meteorologi, astrofisici che hanno presentato nel dicembre scorso un documento al Senato americano, un dossier che era mirato a confutare, a contestare le tesi sul global warming, cioè sul riscaldamento complessivo del pianeta. Di questo probabilmente sarà difficile riuscire a dar conto sui quotidiani delle contraddizioni che possono esserci tra la nostra percezione quotidiana del giorno per giorno e quelli che sono gli allarmi lanciati dalla scienza, probabilmente misurati anche su tempi più lunghi, come avvertono queste stesse schede presentate da Libero. Cambiamo decisamente argomento con invece una segnalazione dal Giorno. Il Giorno ci informa che in Inghilterra hanno messo online lo stradario del crimine. Che cosa è successo? Che c'è appunto un sito dove si possono consultare città, quartieri e vie di Londra con l'indicazione del numero dei reati che sono stati commessi. Secondo l'articolo di Deborah Binetti, l'ultimo anno ha visto un incremento esponenziale della violenza nelle strade di Londra, soprattutto tra i giovani, e quindi da considerarsi legittimo per il cittadino voler scoprire se la propria area di residenza è pericolosa o meno, se ci si può avventurare a piedi di sera oppure se non conviene parcheggiare la macchina durante la notte. Finora però queste erano informazioni riservate, da oggi questo è diventato un servizio pubblico accessibile a tutti grazie a un'iniziativa presa di comune accordo da tutte le 43 forze di polizia presenti in Inghilterra e nel Galles, che hanno messo su internet le mappe del crimine. Mappe del crimine di Londra, ma informa l'articolo anche di ogni città inglese e gallese. Ci sono perplessità naturalmente da parte delle stesse popolazioni, perché è evidente che la diffusione dei dati sull'andamento dei reati ha tra gli altri effetti quello di scoraggiare nuove iniziative e anche di comportare una svalutazione del valore delle case, quindi l'iniziativa è sicuramente di trasparenza ma ha anche effetti economici e sull'attività economica molto importanti. Passiamo ad Avvenire. Avevamo visto in evidenza le questioni della guerra di Gaza, che tiene sempre molto spazio sul giornale della CEI, ma da Avvenire volevo segnalarvi quella che dovrebbe essere la chiusura della polemica per quanto riguarda la preghiera dei musulmani sul sagrato del Duomo di Milano e di San Petronio a Bologna. Infatti informa Avvenire nelle pagine interne delle scuse islamiche per la preghiera davanti al Duomo. A Milano è stato chiesto un incontro a Tettamanzi. Francesco Ognibene riferisce appunto che dopo le polemiche ci sono state le scuse. Con un comunicato diffuso nella serata di ieri, l'arcidiocesi di Milano ha dato notizia della richiesta da parte di alcuni leader della comunità islamica milanese di incontrare il cardinale Dionigi Tettamanzi per esprimergli personalmente il proprio rincrescimento per quanto accaduto nel pomeriggio di sabato, quando un gruppo di manifestanti che stavano concludendo il corteo contro l'iniziativa militare israeliana a Gaza si era soffermato nella rituale preghiera islamica proprio davanti alla cattedrale. Gesto interpretato da alcuni, spiega Ognibene, come un'aperta provocazione con coda di polemiche mediatiche e politiche che si è trascinata sino a ieri. Sino a ieri appunto, perché ci sarebbe questo incontro di chiarimento e di scuse di cui riferisce Avvenire, con il che la questione sembrerebbe avviarsi a una conclusione. E torniamo sul Sole 24 Ore oggi in edicola ha parecchi spunti. Restiamo sulla prima pagina per un istante per segnalare un dato decisamente in controtendenza. Negli Stati Uniti, infatti, informa Andrea Malan, il pick-up, macchina decisamente impegnativa, poco ecologica e costosa da pensare, da mantenere, batte la recessione e gli alti consumi. Qual è il dato da cui parte Malan? Il dato è il fatto che il Ford serie F, che è questo furgone scoperto, questo pick-up appunto come si dice, ha guidato per il 27esimo anno consecutivo con 500.000 unità vendute la classifica dei veicoli più venduti. Non c'è crisi che tenga, scrive Malan, agli americani piace guidare in grande, alla faccia della recessione recessione e della benzina arrivata anche a 4 dollari al gallone, il veicolo più venduto negli Stati Uniti nel 2008 è stato un pick-up, un furgone scoperto. Appunto, si tratta di questo Ford serie F, e tra le automobili vere e proprie poi primeggia la Toyota Camry con 436.000 unità. Intendiamoci, è la precisazione di Malan, ai tempi d'oro la Ford vendeva quasi 900.000 serie F, oggi stiamo parlando di 515.000, e ancora nel 2007 ne sono stati consegnati ai clienti 690.000, quindi le vendite complessivamente di questo pick-up, di questo furgone, sono diminuite. Ma il rincaro, poi rientrato della benzina, ha avuto un effetto importante, riconsegnando nel 2008 alle auto vere e proprie il predominio del mercato USA. Tuttavia fa impressione pensare che l'auto complessivamente con più unità vendute è un'auto con un motore V8 da 4,2 litri di cilindrata. Questa è la segnalazione dal Sole 24 Ore, quindi non rinunciano a certi status, a certe abitudini di consumo gli statunitensi. Torniamo invece sulle questioni di casa nostra, la cassa integrazione. Il dato importante, preoccupante della chiusura dell'anno con questo aumento della cassa integrazione, Giorgio Pogliotti ci informa che da dicembre la cassa integrazione di tipo ordinario, cassa integrazione ordinaria, è cresciuta del 526% nell'industria, e rispetto allo stesso mese del 2007 i trattamenti di integrazione salariale hanno superato i 20 milioni sotto la spinta delle aziende meccaniche che hanno avuto 13 milioni di ore. La cassa integrazione straordinaria ha invece fatto registrare, apprendiamo sempre dall'articolo di Giorgio Pogliotti, una flessione del 12%, ma complessivamente le ore di integrazione salariale sono cresciute del 130%. Considerando anche la gestione nell'edilizia, dove l'aumento tendenziale è stato del 10%, il totale delle ore autorizzate è in crescita appunto del 110% rispetto a dicembre 2007. Allora, visto che siamo su qualche dato decisamente non positivo, ne approfittiamo per segnalare anche la classifica che trovate a pagina 5 del 24 ore sul debito pubblico. Sono stati diffusi i dati di Banca Italia, debito l'Italia ancora in vetta, spesa per interessi da record, parliamo dei dati del 2007, l'Italia trova ancora un debito pubblico in percentuale del PIL del 104,1%, la classifica e il commento sono affidati a Luigi Lazzi Gazzini. Allora, per contrastare l'andamento poco brillante dell'economia, naturalmente ci si aspetta molto dal cosiddetto decreto legge anticrisi, decreto legge che sta riprendendo in questi giorni i lavori. Ci informa Marco Rogari, sempre sul Sole 24 Ore, che è partito il primo sprint per cercare di ottenere entro sabato già il sì in commissione alla Camera, poi lunedì in aula, e avere quindi per la fine di gennaio la versione definitiva di queste che sono le misure che devono sostenere consumi ed economia. C'è una corsa contro il tempo, scrive Marco Rogari, per correggere il decreto anticrisi. Il decreto, come sapete, è già in vigore, ma nella conversione, nella fase di dibattito parlamentare, sta aprendosi a nuove possibili modifiche. La segnalazione tra le modifiche: più stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, ritocchi per le agevolazioni alle famiglie, di questo si è parlato anche nei giorni scorsi, con un maggiore incremento del bonus cosiddetto famiglia, e anche procedure rapide per i rigassificatori. Questa è una novità della giornata di ieri, direttamente collegata anche alle questioni internazionali sulle forniture di gas. È invece partita aperta sul possibile ripristino del bonus Maroni, cosiddetto bonus Maroni, sulle pensioni. Questi alcuni dei correttivi, dei quali si conoscerà poi l'assetto definitivo probabilmente tra la fine di questa settimana e la prossima, quando il decreto legge arriverà appunto nell'aula della Camera. Abbiamo visto diversi dati sull'andamento della crisi, in particolare dal primo titolo, al titolo più importante, Il Sole 24 Ore di oggi, dedicato appunto all'andamento della cassa integrazione. Stavamo parlando della percorso parlamentare del decreto legge, delle misure urgenti varate dal governo a fine novembre proprio per contrastare la crisi, dare sostegni alle famiglie e all'economia. Allora restiamo con qualche dato sparso ancora sulla crisi, uno lo prendiamo da Repubblica. Ci informa Repubblica nella sua parte R2, quindi quella più dedicata alle inchieste, anche i manager piangono, è una lunga inchiesta dedicata appunto al licenziamento dei manager affidata a Roberto Mania, e nei numeri che corredano l'articolo di Mania si segnala che nell'arco del 2008 si stima che siano stati licenziati circa 10.000 dirigenti nell'industria e nei servizi. Su un totale di circa 13 milioni di dipendenti che sono occupati nel settore privato, i dirigenti italiani sono poco più di 120.000, guadagnano in media poco più di 100.000 euro lordi l'anno, più o meno 4 volte quanto guadagna un operaio, e lavorano ogni settimana in media, secondo dati diffusi da Manager Italia e dal Censis, 52 ore, weekend compresi. La crisi appunto che colpisce i colletti bianchi è l'oggetto di questa inchiesta di Repubblica affidata a Roberto Mania, in cui si ricorda che nel 2008 almeno 10.000 dirigenti hanno perso il posto. Ci sono però anche delle notizie che sembrano in controtendenza, una la prendiamo dal Corriere della Sera ed è l'aumento della pubblicità. Secondo le dichiarazioni del presidente dell'UPA, Lorenzo Sassoli De Bianchi, la pubblicità va controcorrente. Il 60% delle aziende, riferisce, ha detto a Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera, il 60% delle aziende investirà di più. La disoccupazione, nonostante la recessione e la disoccupazione, non ci sono solo brutte notizie, dice il presidente dell'associazione che riunisce i grandi utenti della pubblicità, e quali sono quelle buone, allora verrebbe da dire, si apprende dall'articolo, secondo le prime stime Nielsen sui primi 10 mesi dell'anno c'è un aumento del 18,5% della spesa in pubblicità online, 18,5%, per un totale di 258 milioni. Anche gli investimenti sulla radio, questo ci fa piacere dirlo, sono in crescita, segnalati del più 4,4%, e tiene pure la TV con un più 0,7%. A ottobre. In discesa figura la stampa, con investimenti pubblicitari in calo del più del 3% e i periodici più del 5%. Però, avverte Sassoli, il 60% delle 170 grandi aziende associate a UPA quest'anno sta aumentando gli investimenti in pubblicità, e il trend è riscontrato anche negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio dell'Associazione degli Utenti Pubblicitari Americani, il 77% delle imprese, quindi diciamo 3 su 4, ritiene la spesa pubblicitaria indispensabile. Solo il 30% taglierà gli investimenti in comunicazione, ma il 26% li aumenterà. Li aumenterà, pare, più del 10%. Cioè, le previsioni sono quelle di un semestre difficile, sicuramente nella prima parte del 2009, ma poi si attende questa reazione. Auguriamoci che questo sia naturalmente una previsione felice. Vi segnalo però un altro curioso effetto della crisi che invece ho trovato su il giornale di Milano. Ci informa che tra i vari effetti della crisi finanziaria e poi del conseguente cattivo andamento dell'economia c'è anche la perdita di fascino per le facoltà economiche e finanziarie. Una corrispondenza di Erika Orsini da Londra dice: la City perde il suo fascino e fa paura ai giovani. Le università britanniche hanno registrato un calo di iscrizioni del 15% nelle facoltà finanziarie ed economiche, gli studenti, pare, preferiscono ora un futuro sicuro, meglio fare l'insegnante o lavorare nella pubblica amministrazione. Nella parte centrale della pagina si parla anche del tramonto del broker, tramonto di un mito dorato, è il titolo dell'articolo affidato a Guido Mattioni. La scelta dei giovani che sembrano meno entusiasti di scegliere la facoltà finanziarie ed economiche, quindi possibili impieghi poi nel mondo della finanza e della borsa, deriverebbe anche dalle indicazioni che vengono da giornali e riviste che prevedono enormi tagli del settore. Spiegano anche dalle stesse università, come riferisce appunto l'articolo della collega Orsini, che qui si parla di perdite di posti oltre le 100.000 unità, quindi certamente non è un buon viatico per chi sta scegliendo la sua futura carriera. E chi invece un lavoro ce l'ha e anzi ci è tornata rapidissimamente è il ministro della giustizia francese, la signora Dati, ministro supermamma, dice una foto sulla stampa di oggi, la ministra supermamma batte tutti i record, Rachida Dati torna al lavoro solo 5 giorni dopo il parto e il ritratto del ministro che in così breve tempo, in un tempo brevissimo, ha scelto di essere di nuovo al ministero, è affidato a Roselina Salemi, si è presentata puntuale all'Eliseo, in tacchi a spillo e un bel sorriso fotogenico. Addirittura in un sommario che illustra l'articolo della Salemi si parla di mutazione genetica in qualche modo, cioè l'ultimo caso di una nuova specie di donne che sembra non farsi intralciare dai pancioni o dal bebè, verrebbe da dire, forse anche contraddicendo un po' quelli che sembrano i tempi naturali. Comunque complimenti al ministro della giustizia francese per questo rapidissimo rientro al lavoro. Sempre in materia di maternità e lavoro c'è una interessante segnalazione di Alessandra Farkas sul Corriere della Sera di oggi. Il bebè va in ufficio con la mamma. La scelta discussa di 120 aziende americane. Ci sono banche, grandi magazzini, studi legali e agenzie statali che stanno diventando baby friendly. Cosa significa? Significa che ci sono dei programmi, delle scelte aziendali che consentono in qualche modo di portare i bambini sul posto di lavoro. Questo è anche una necessità, informa la Farkas, perché nel clima di recessione economica portare i figli in ufficio in America è per molti una necessità. È una necessità resa possibile da una legge che obbliga le aziende USA a riconoscere 3 mesi di congedo ai nuovi genitori con l'obbligo di reintegrarli al ritorno. Prima di questa legge, che è stata varata dall'amministrazione Clinton, chi si assentava per la maternità rischiava anche il licenziamento. Quindi una tendenza assolutamente nuova, quella di tenere i figli addirittura in ufficio, evidentemente dettata, come informa la stessa Farkas, anche dalla necessità di risparmiare, di contenere i costi. Chiudiamo con un rapidissimo sguardo a questioni sportive. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, non l'abbiamo vista prima, il titolo più alto è quello dedicato alle vicende di mercato, si parla di Cassano, Antonio Cassano, il fantasista attualmente in forza alla Sampdoria, che potrebbe andare all'Inter. La risposta del presidente Massimo Moratti, difficile, però Moratti non chiude l'attaccante sampdoriano, Balotelli chiede invece di andare in prestito per giocare. Il titolo però più importante della Gazzetta dello Sport è questa sfida per trovare il giocatore del decennio, la sfida è tra il milanista Kakà e Messi, ne parlano appunto 4 super tecnici, si tratta di Lippi, Capello, Sacchi e Bilardo, scelgono l'uomo che segnerà un'epoca. E un dato invece meno brillante in qualche modo in materia sportiva viene dal Corriere della Sera, che ci informa di quanto sia indisciplinato e poco sportivo il calcio dei dilettanti. Nella sua sezione Lo Sport, docce fredde e teste calde, il calcio dilettanti è un Salun. L'altra faccia del pallone è l'argomento che accompagna questo articolo di Tomaselli, Paolo Tomaselli, drammi e tragicommedie nelle sentenze del giudice sportivo di Serie D e la vita per gli arbitri è sempre più dura. E con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa di oggi, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani, grazie a Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia. Pronto Pic. Volevo chiedere per